viene meglio se tu porti stanco oppure giacca afghana. Oh, oh, oh, oh, oh, originale cipatan, cico già sai. Oh, oh, oh, oh, oh, che non ve ne a livello cipatan, in ballotta cipatan, struso tu vuoi già sai. Afghan.